sopra il gas e la vita che ribolle, ancora un altro incrocio dove si va, manichini in fila indiana, ansia metropolitana e la radio che ci canta di libertà. Pace col demonio che mi passa un calomel. Questo è l'inizio della fine, saltello tra le mine, l'ennesimo Armageddon mi annullerà. E mentre la città si fa il suo trip, mi brucio l'anima su Junkie Beat. E mentre la città si fa il suo trip, io vendo e questa pista si è allagata di sudore e marmellata, ma stanotte va così. E tra vampiri in minigonna e pezzi di Madonna ballano gli zombie dentro di me. Grazie!